Nessun problema ai nostri giorni preoccupa tanto i credenti in Cristo quanto quello dell'unità della Chiesa. Per questo si citano ripetutamente le parole di Gesù in merito ai credenti espresse nella preghiera sacerdotale rivolta al Padre, affinché siano tutti uno come tuo Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, come il maggior obiettivo del secolo. Nulla da obiettare sia come meta, sia come citazione della volontà di Gesù, ma avere una meta non è sufficiente perché sia legittima, dato che anche i ladri hanno delle mete ma non legittime. Anche riportare un'affermazione di Gesù non è sufficiente, infatti i testimoni di Geova, pur richiamando nelle parole, concludono che Gesù non è il figlio di Dio. Al di là di questa doverosa premessa, ci è da chiedersi, invece, se l'unità dei cristiani sia mai esistita e, nell'eventualità, cosa si intenda per unità. Ognuno potrà dare la sua risposta, ma certamente la più giusta e valida è quella che nasce dalla storia. Individuabile prima di tutto uno, nell'epoca apostolica, poi due, in quella post-apostolica fino all'editto di Costantino avvenuto nel 313, e infine tre, in quella che seguì l'editto di Costantino fino ai giorni nostri. La Chiesa di Cristo nasce nel giorno della Pentecoste secondo il calendario ebraico. In quel giorno, coloro che erano nell'alto solaio, circa 120 individui, furono battezzati nello Spirito Santo e parlarono nelle lingue. Poiché era un giorno di grande festa, a Gerusalemme soggiornavano uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Atte 2.5. E l'uditorio, pur essendo costituito da persone di ben 18 identità etniche differenti, intendeva le parole dei giudei. Udite queste cose. Essi furono toccati nel cuore. 2.37. Lo storico ed evangelista Luca, con una certa precisione, descrive dettagliatamente lo svolgimento dei fatti. Quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed erano tutti presi da timore, e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Or tutti coloro che credevano stavano insieme ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano i poderi e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio, e rompendo il pane di casa in casa, prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Atto 2.4147. Occorre fare un breve esame della vita comunitaria dei primi credenti, perché sono rare le persone che hanno letto questo episodio senza essere stati toccati o sedotti dal loro comportamento. Purtroppo, nel leggere certi racconti biblici, alcuni credenti di oggi stabiliscono dottrine e pure comportamenti da adottare nel XXI secolo. Che la parola di Dio sia una regola non solo di fede ma anche di condotta è più che giusto, perché se così non fosse, per il credente non sarebbe più la parola di Dio. Ma stabilire e insegnare comportamenti, basandosi su episodi narranti, il quotidiano vivere dei primi credenti, è molto pericoloso, perché non tutto ciò che leggiamo in merito al costume dei credenti menzionati nelle scritture è sempre da imitare. A catturare l'attenzione di alcuni è che i primi credenti in Cristo vendevano i poderi e i beni, li distribuivano a tutti e avevano ogni cosa in comune. Perciò, sedotti da questo atteggiamento, insegnano e vorrebbero che si mettesse tutto in comune come modello della Chiesa di oggi. Ma le cose stanno proprio così? Fra le almeno 8 ragioni per le quali oggi la Chiesa, nella sua espressione comunitaria, non debba imitare i primi credenti in Cristo, l'iniziale è che la comunità della prima Chiesa era affetta da un amore entusiastico, e l'entusiasmo, si sa, passa. Inoltre, i primi ebrei credenti in Cristo imitavano la vita comunitaria condotta da Gesù con i discepoli. In effetti, Gesù diede ordine ai discepoli di non prendere nulla con loro durante il viaggio e di mangiare di tutto quello che veniva loro posto davanti. Inoltre è da sottolineare nell'epoca nativa della Chiesa la rinuncia ai beni posseduti e il donare ai poveri avevano un carattere facoltativo. È molto importante tenere in considerazione questo aspetto perché porta il credente di oggi a capire che il mettere tutto in comune non sia un principio di Dio. Non deve sfuggire neppure il fatto che nella Chiesa iniziale continuava a coesistere il possesso privato dei beni e mancava l'idea di uguaglianza come noi la intendiamo oggi. I primi credenti non vendevano i beni per un principio di uguaglianza, cioè che tutti dovevano essere poveri nella stessa maniera, ma gli apostoli prendevano i doni e li distribuivano secondo il bisogno. È curioso notare che chi è a favore della comunione dei beni generalmente fa parte di coloro che non possiedono niente e a volte neppure troppo propensi a lavorare. Infine, nella Chiesa dei primi discepoli di Cristo tutto era comune, non in comune, cioè rendevano partecipi i fratelli di tutto quello che avevano, ma non vendevano tutto per livellare il tenore di vita di tutti. Ma non tutto era fiori e rose nella comunità dei primi credenti, perché il loro modo di vivere ha provocato almeno due scompensi nella Chiesa. Per prima cosa le vedove erano trascurate, Atti 6.1. In seguito arrivarono alla povertà e altre chiese dovettero aiutarle, 2 Corinzi capitolo 8 a 9. L'obiettivo dei primi credenti non doveva essere quello di stare assieme, ma di portare l'Evangelo in tutto il mondo come aveva ordinato Gesù. Dunque, furono questi i giorni gloriosi di unità per i primi credenti, da notare che non si parla ancora di cristiani, ma questo stato felice era solo per la Chiesa di Gerusalemme al suo nascere. Lo stesso sentimento di unità che può esistere tra due innamorati ai primi incontri, ma ben presto, anzi, prestissimo, i credenti si trovarono di fronte a nemici interni ed esterni. Lo storico Luca fa presente che Anania e Saffira, due credenti, fingono di essere magnanimi davanti alla Chiesa e vengono colpiti da Dio con la morte. Ma il primo grande problema si verificò allorché i credenti ellenisti mormorano contro quelli provenienti dal giudaismo perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Meno male che vi erano gli apostoli, quali con la loro autorità e saggezza fecero eleggere dei diaconi, altrimenti molto probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. La Chiesa di Gerusalemme dunque progrediva, ma ben presto un diacono di nome Stefano fu lapidato, e sempre lo storico Luca descrive in quale modo per la prima volta la Chiesa diventa missionaria. Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme, e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno, annunziando la parola. Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. Atti 8.15. Fu così che la Chiesa iniziò a predicare il Vangelo in tutto il mondo, e con la conversione di Saulo, chiamato Paolo, il Vangelo si sparse in luoghi lontani fino ad arrivare a Roma. Con il lavoro missionario di Paolo nacquero tante chiese, ma in nessuna di esse vi era quell'unità, tanto aspirata oggi. Alle chiese della Galazia, per esempio, Paolo dovette scrivere una lettera perché avevano deviato dal semplice Evangelo per ritornare sotto la legge, dunque un problema dottrinale. Mentre ai credenti di Corinto Paolo ha dovuto scrivere varie lettere di rimprovero a causa del fazionismo esistente fra loro e delle liti. Inoltre alcuni credenti di Filippi predicavano l'Evangelo per invidia e rivalità, altro che unità dei cristiani. Che dire poi quando Paolo ad Antiochia dovette condannare pubblicamente Pietro e Barnaba per il loro comportamento ipocrita, pretendente che i gentili vivessero alla giudaica, quando loro che erano giudei vivevano da non giudei. Se l'incoerenza e l'ipocrisia era addirittura ai vertici della spiritualità della Chiesa anche nell'età nascente, è forse una novità trovare tra i capi spirituali di oggi comportamenti equivoci che disonorano Dio e il Vangelo? Chi è in grado di capire l'errore e la verità, soprattutto oggi quando nell'ambito religioso si cerca a tutto spiano solo ciò che unisce e non ciò che divide. Fu ad Antiochia che per la Chiesa scoppiò il problema più grave e decisivo sulla vera identità del cristianesimo. Una questione relativa ai rapporti intercorrenti tra la nuova fede e il giudaismo che, non bisogna dimenticare, aveva almeno 1500 anni. Ci si chiedeva per esempio se per appartenere alla nuova fede occorresse prima farsi circoncidere e sottoporsi a tutte le altre pratiche religiose giudaiche. Questo tema venne ampiamente discusso nella conferenza di Gerusalemme, che si svolse nel 49 d.C., alla quale si fa riferimento in Atti 15.5-29 e poi in Galati 2.1-10. Il momento della riprensione di Paolo nei confronti di Pietro si inserisce prima di questa conferenza e dopo il primo viaggio missionario, che ebbe inizio nel 45 d.C. e durò 3 anni, confronta Atti 13.4-14-26. Dunque, non vi era nulla di armonioso anche alla nascita della Chiesa di Cristo. Altro dato importante, a dimostrazione che la Chiesa esordiente aveva spesso grandi difficoltà di comunione, è l'episodio della conversione di Cornelio, un cittadino romano non ebreo. Quando per la volontà di Dio Pietro andò a casa di Cornelio per predicare l'Evangelo e questo si convertì, gli altri credenti circoncisi contendevano con lui. Atti 11.2, ma in seguito, grazie a Dio, si calmarono e glorificavano Dio, perché la salvezza era giunta anche a chi non era ebreo. Lo storico Luca anche in questo caso mette un'interessante nota che vale la pena leggere per estesa. Or coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano arrivarono fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunziando la parola a nessun altro se non ai soli giudei. Ora alcuni di loro originari di Cipro e di Cirene, arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro, e un gran numero credette e si convertì al Signore. La notizia di questo pervenne agli orecchi della chiesa che era in Gerusalemme, ed essi inviarono Barnaba perché andasse fino ad Antiochia. Quando egli giunse, vista la grazia di Dio, si rallegrò e esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede. E un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. Poi Barnaba partì per andare a Tarso in cerca di Saulo, e trovatolo lo condusse ad Antiochia. E per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e ammaestrarono un gran numero di gente, e per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Atti 11.1-9.26. La fede del cristianesimo si era dunque sparsa ovunque, nonostante vi fossero anche delle questioni interne, perché la misericordia di Dio è più grande degli errori degli uomini. Quello post-apostolico può chiamarsi, a ragion veduta, il periodo della clandestinità e persecuzione della Chiesa causate dal rifiuto dei credenti, sia di riconoscere la divinità dell'imperatore romano, sia di scendere a compromessi con altre religioni. Ma, da subito, non mancarono le divergenze in seno alla cristianità del secondo secolo, causate da personaggi come per esempio Cipriano, vescovo di Cartagine, il quale formulò per primo la dottrina della Chiesa una e universale, dicendo «Dov è il vescovo, ivi di è la Chiesa», mentre Ignazio, vescovo di Antiochia, sosteneva che «Dove è Cristo, lì vi è la Chiesa». A chi legge la vita di quelli che vengono chiamati i padri della Chiesa non occorre molto per rendersi conto come fra di loro vi siano state divisioni soprattutto dottrinali, per non parlare anche di affermazioni eretiche. Un esempio è Origene, nato ad Alessandria attorno al 185 da genitori cristiani. Egli insegnò l'essenza trina di Dio, ma la sua era una trinità gerarchica. Il Padre è più grande del Figlio, il quale è più grande dello Spirito Santo, e il Padre il solo a essere vero Dio. Il Figlio è uguale al Padre, ma a un livello inferiore. Se il Padre è Dio, con la D maiuscola, si potrebbe dire che il Figlio è Dio, con la D minuscola. In tal modo la Trinità di Origene è una Trinità a tre piani, o un Dio a tre livelli diversi. Non a caso, un secolo più tardi, Ario avrebbe sviluppato ulteriormente questo concetto, concludendo che il Padre è realmente Dio, mentre i figli e lo Spirito Santo sono solo creature. In definitiva, Dio era una monade, cioè uno e non tre. Questi episodi messi assieme ad altri fanno intendere che le eresie il più delle volte nacquero e nascono proprio in seno alla cristianità, cioè da coloro che si sono e si professano cristiani. Infatti l'eresia di ritenere il padre maggiore del figlio oggi è portata avanti dai seguaci della torre di guardia e anche, inconsapevolmente, da una buona parte di coloro che si professano cristiani. La cosa dà molto da pensare. Altro che unità dei cristiani. Sempre nel periodo antecedente l'editto di Costantino sorsero gli Ebioniti ed altri con loro che negarono la divinità di Cristo, mentre all'altro estremo sorsero i Doceti che negarono la sua vera umanità, proponendo la teoria secondo la quale la vita terrena di Gesù Cristo era solo un'illusione, ossia non era stato il Cristo divino a soffrire e a morire. Queste discussioni teologiche in seno alla cristianità sembrano negative, ma di fatto esse servirono per stabilire una volta per tutte dottrine in merito alla fede cristiana. Nel 325 Costantino convocò il Concilio di Nicea, nel quale si discusse la divinità di Cristo e Ario. Assieme a due altri vescovi, furono condannati come eretici. Nel periodo che seguì, i cristiani dovettero affrontare tante altre eresie e stabilire una fede comune. Per esempio, fino a quel momento uno degli aspetti trascurati dal dibattito teologico concerneva la persona dello Spirito Santo. Non sembra esistere un qualche documento cristiano di un certo valore attinente alla divinità dello Spirito prima della seconda metà del IV secolo, molto dopo il Concilio di Nicea, che si era occupato soprattutto della relazione del padre con il figlio. In seguito, nel 380 d.C., Gregorio di Nazianzo riassume il problema in questi termini. Tra i sapienti fra di noi, alcuni lo hanno concepito come una divinità, alcuni come una creatura, alcuni come Dio, e altri non erano certi di come chiamarlo. Questi documenti non fanno altro che dimostrare come l'unità dei cristiani fosse ben lontana al sorgere della Chiesa, perché erano periodi nei quali si dovevano gettare le basi per una fede comune e, se casomai ci fosse una unità dei cristiani, questa sarebbe più possibile oggi che tempo indietro. Ma meno ironia della sorte, meno anche se la Chiesa non ha più grossi problemi teologici da definire, essa è sotto la pressione di una forte confusione teologica. Sembra una riflessione contraddittoria, ma di fatto non è sufficiente avere già formulate delle dottrine, poiché mancandone la dovuta assimilazione è come se queste fossero inesistenti. È responsabilità perciò di ogni generazione l'appropriarsi delle verità cristiane, altrimenti le eresie che abitano in un cuore anche rigenerato hanno la meglio sulla mente del credente. Ne è stata una prova eclatante la vita di Lutero. Martin Lutero sarebbe diventato avvocato se un incontro ravvicinato con la morte non lo avesse convinto a farsi monaco, aggregandosi ai frati agostiniani, anche se divenne professore di teologia. Egli pensava, come qualsiasi altra persona, che per piacere a Dio occorre mettercela tutta per salvarsi con le proprie opere. Fu solo in seguito, quando Dio gli rivelò che la giustizia di Dio non è solo la condanna del peccatore, ma anche il diventare giusto con un atto di fede in Cristo, che comprese la parola di Dio, ma non distrusse del tutto certi concetti cattolici romani sbagliati, come la transostanziazione. In quel periodo vari uomini erano stati illuminati dallo Spirito Santo per comprendere la parola di Dio, come Calvino, Martin Bucero, Filippo Zelantone, Pietro Martire, Vermigli, Huldrych Zwingli, eppure vi erano notevoli differenze nel loro approccio teologico. L'unità dei cristiani continuava ancora a non esistere. Per comprendere la storia della Chiesa e dei singoli cristiani, è opportuno a questo punto fare una non solo doverosa, ma soprattutto indispensabile precisazione, senza la quale si arriverebbe a fare di tutte le erbe un fascio, mischiando così veri. Quando si parla di cristiani, di Chiesa e di cristianesimo, nella mente degli occidentali, come di tutto il mondo, si confonde la storia del cattolicesimo con la storia della Chiesa, come se il cattolicesimo fosse il vero cristianesimo. Infatti, nei libri di testo scolastici e in quelli divulgativi, quando si racconta la storia del cristianesimo, i nomi di papi, di vescovi, di cattolici assassini e anche di eretici vengono tranquillamente citati come se si trattasse di cristiani. Così, quando si parla di Chiesa cristiana, si racconta lo scisma increscioso avvenuto nel 1054 tra quelle impropriamente definite Chiesa di Occidente e Chiesa di Oriente, concludendo che la Chiesa in divisa si spaccò in due tronconi. Ma in effetti non fu la Chiesa in divisa a dividersi, ma una religione che si formò in due rami. Perché raccontare questo? Perché, quando con Lutero e altri come lui sorse il protestantesimo, non si trattò di una nuova divisione della Chiesa, ma della scomunica da parte dell'imperialismo di Roma a carico di un uomo causata unicamente dal rifiuto di questo a sottostare all'autorità papale. E Lutero, davvero cristiano, si trovò dalla parte di tutti coloro che nei secoli precedenti avevano creduto alla giustificazione per grazia, mediante la sola fede, i quali nella propria esistenza non riconoscevano altra autorità se non la parola di Dio. Pur non possedendo un'unità dottrinale, i cristiani erano comunque uniti in Cristo, perché tutti battezzati nello Spirito Santo per formare un solo corpo, cioè la Chiesa. L'unità dei cristiani non è dunque un qualcosa da crearsi, essa è già esistente, per questo va solo conservata. Del resto, è quanto dice la parola di Dio per mezzo di Paolo. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Efesini 4:1. Secondo la Scrittura, a dividere i cristiani non sono tanto le dottrine, anche se ovviamente hanno la loro importanza a meno, ma il peccato, come l'orgoglio e la mancanza d'amore. Infatti, se tutti i credenti fossero motivati dall'amore, anche con dottrine diverse potrebbero essere uniti per l'avanzamento del regno di Dio. Perché, come disse Gesù, chi non è contro di voi è per voi. L'unità non passa necessariamente per l'uniformità. Ora è giunto il momento di fare un'altra precisazione perché il nostro tema possa essere ulteriormente chiarito. Occorre cioè definire l'identità di un cristiano, un termine che oggi non ha quasi più nessun significato. Innanzitutto bisogna respingere con fermezza l'usanza secondo la quale il termine cristiano sia usato come aggettivo per definire una cosa, come un libro, un giornale, un edificio o una scuola. Solo una persona può essere o non essere cristiana. Inoltre, l'appellativo di cristiani venne attribuito per la prima volta ad Antiochia, ai discepoli di Gesù, cioè a coloro che accettavano gli insegnamenti degli apostoli. La cosa sorprendente è che in tutte le lettere scritte dagli apostoli formanti il Nuovo Testamento non si legge mai che chi pone fede in Cristo diventa un cristiano, ma un figlio di Dio. In seguito, se cammina secondo le regole di Gesù, è chiamato discepolo o santo, ma non ancora cristiano. Questa parsimonia degli apostoli nell'uso del termine cristiano dovrebbe farci riflettere, proprio oggi, quando una qualsiasi persona battezzata da piccolo nella religione cattolica romana o nell'ambito di altre religioni come il protestantesimo o ortodossi viene definita cristiana. Questa è la ragione del nostro disorientamento in merito all'unità dei cristiani. Se comprendiamo il nostro errore, non saremo più smarriti quando dei credenti in Cristo si comportano peggio degli increduli o non vanno per nulla d'accordo, perché in quel caso si tratta solo di credenti e non di cristiani. Cristiani si diventano, si nasce, neppure tramite una esperienza spirituale come la nuova nascita. Cristiano è chi ha non solo un cammino conforme al volere di Cristo, ma pure le sue dottrine. Gesù ha parlato spesso della sua dottrina, Giovanni 7:16-17, e leggiamo nei Vangeli che il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. L'unità dei cristiani può avvenire solo se vi è un accordo dottrinale. Diversamente, come è successo nel corso della storia, i credenti potranno essere dei cristiani ma non uniti. E poiché, come abbiamo detto all'inizio, nessun problema ai nostri giorni preoccupa tanto i credenti in Cristo quanto quello dell'unità della Chiesa, pur di arrivare a questa meta, troppi credenti calpestano la verità o scendono a compromessi. In conclusione, possiamo dire che l'unità dei cristiani esiste già in Cristo e i credenti, come dice l'Apostolo Paolo, con i loro doni messi a servizio della Chiesa, giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia. Mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Efesini 4.1-3.15. Non conosco altro metodo per mantenere l'unità dei cristiani. Per un esame approfondito, vedere Cristianesimi nell'antichità. Ed. G. B.U. Giancarlo Rinaldi. Pag. 362-363. Giugno 2008.